Investire informati. Vedo che stamattina rialza la testa anche l'euro sul dollaro 1,0624. C'è un bel piatto ricco stamattina per Lorenzo Alfieri, Country Head Italia di JP Morgan Asset Management. Buongiorno, ben ritrovato, buon anno, chi più ne ha più ne metta. Buon anno anche a voi. E naturalmente intanto agli ascoltatori, mi raccomando, state allertati come sempre, perché fra un po' poi a sorpresa vi presenterò il domandone per vedere se avete studiato. Il fatto su cui vi interrogherò stamattina è della settimana scorsa, e attenzione alle bacchettate sulle dita anche, che naturalmente vi verranno riservate, virtuali ovviamente, affettuose, se non conoscete appunto l'argomento, ma sarà facilissimo come sempre, anche perché abbiamo un sacco di libri che sono arrivati anche a Natale, che vogliamo distribuire ed elargire ai nostri ascoltatori, che come sempre quando indovinano un tema di denari vogliono il libro di cuore, viceversa se indovinano il tema di cuore vogliono il tema di denari, insomma diversificano anche in questa maniera. Quindi il numero verde è a vostra disposizione anche per altre domande sulle vostre scelte di risparmio e di investimento recenti o che farete. 800 24 00 24, il numero verde che conoscete comunque molto bene. Dottor Alfieri, allora, è sicuramente troppo presto per fare bilanci, oggi è il 12 gennaio, ma a suo giudizio che caratteristiche ha questa partenza di anno finanziario? Ma diciamo che, contrariamente magari ad altre partenze, questa è una buona partenza, nel senso che già dalla fine dell'anno scorso, ma anche nei primi giorni di quest'anno, sono uscite tutta una serie di dati che riguardano gli Stati Uniti, l'Europa, in parte anche la Cina e i mercati emergenti, che denotano come tutto sommato la crescita rimane robusta, le aziende continuano a produrre utili e tutto sommato quelle che erano un po' le variabili più temute, petrolio per dire uno, l'oscillazione troppo violenta che abbiamo visto durante il 2016, anche l'andamento delle borse, sono tutti fattori che in questo momento stanno giocando, per così dire, a favore del clima complessivo sui mercati finanziari, tant'è vero che anche in questa prima parte dell'anno abbiamo visto che le borse tutto sommato stanno salendo o comunque hanno un tono decisamente positivo. Molte piazze finanziarie, soprattutto le europee, ma anche Wall Street, avevano archiviato il 2016 con un bilancio positivo e lo pubblica anche il Sole 24 Ore questa mattina questo schema. Dall'inizio dell'anno stanno tutte consolidando questi rialzi e anzi rafforzandoli, perché Francoforte per esempio guadagna 1,5 punti, tutto l'Eurostoxx europeo è in rialzo di quasi 1 punto, Parigi più 0,54, è negativa solo Madrid, Londra più 2%, questo è un caso veramente eccezionale perché nonostante la Brexit appunto il listino azionario continua a correre, tutto ciò è effetto della forte svalutazione della sterlina che continua a scendere, anche quell'effetto di Brexit, ma il mercato come sempre capace di fare guarda il bicchiere mezzo pieno delle circostanze. Milano, che invece l'anno scorso è stata la peggior piazza d'Europa e ha chiuso l'anno con un bilancio negativo per il 10%, riesce a recuperare qualcosa dal 2 gennaio, più nel 31% appunto a ieri, oggi abbiamo questo calo, vedremo se sarà confermato a fine seduta, ma in ogni caso appunto prove tecniche di rimbalzo, chiamiamole così. Per cui se dobbiamo riconsiderare, dottor Alfieri, ciò che ci lascia in eredità il 2016, abbiamo visto prevalentemente, secondo voi, nonostante la variabile politica, Brexit, l'elezione di Trump, le oscillazioni del petrolio, la caduta della borsa cinese dall'inizio dell'anno, invece voi fate un bilancio complessivamente positivo, un'eredità buona. Sì, un'eredità sicuramente buona, però correttamente non bisogna dimenticarsi quali sono i principali eventi del 2017 e le incognite che ci sono dietro questi eventi che magari poi durante la nostra discussione andremo ad analizzare. Abbiamo già molto spesso sensibilizzato gli ascoltatori sulla necessità di mantenersi allerta sui temi politici perché comunque condizionano i mercati finanziari. Senta, dottor Alfieri, però prima di andare a questi argomenti, prima di cominciare a fare il consueto giro per il mondo e il giro delle notizie finanziarie da commentare insieme, quali saranno secondo lei Le sfide di altro tipo che dovranno affrontare i risparmiatori quest'anno, quindi questioni, non so, normative, quelle relative all'educazione finanziaria, all'assunzione di consapevolezza quando si fanno scelte di investimento. Noi abbiamo iniziato l'anno con il caso dei fondi immobiliari di Poste Italiane affrontati ieri e delle proposte di indennizzo a risparmiatori soci della Veneto Banca e della Popolare di Vicenza, quindi altre due storie che insegnano molto chiaramente come bisogna fare delle scelte di investimento su ciò che si conosce molto bene. Oppure, non so, propongo la gestione dei rapporti con gli intermediari, la consulenza finanziaria, se lei dovesse farci un po' una graduatoria delle questioni che più da vicino i risparmiatori dovranno tenere in considerazione, insomma, cosa ci direbbe? Ma sicuramente ci sono tutta una serie di elementi che sono stati adesso citati, sicuramente importanti, però io direi che vedo fondamentalmente un elemento molto importante. Il 2017 rimarrà, per una serie di motivi, un anno estremamente volatile. Quindi bisogna ritornare nuovamente a lavorare sulla propria propensione al rischio, le proprie decisioni di investimento, anche gli obiettivi che ci si pongono. Se no, rischiamo ovviamente ogni settimana di trovarci punto a capo. Quindi, come già nel 2016 dicevo, secondo me bisogna avere un'interlocuzione con un esperto, un professionista, per valutare attentamente quali sono le proprie soglie, diciamo, di dolore alle eventuali perdite. Soprattutto l'obiettivo che ci si pone, essere molto chiari nella progettualità delle proprie aspirazioni, e su questo costruire un proprio portafoglio e mantenerlo anche nei momenti di alta volatilità. Lo ridico perché avremo nel 2017 dei momenti molto importanti e ci aspettiamo in questi momenti purtroppo una certa volatilità. Certo, non ci dimentichiamo poi che altro agente molto vivace che inciderà sull'andamento dei mercati saranno gli orientamenti delle banche centrali. Sappiamo già per certo che la Banca Centrale Americana adotterà almeno altri 3 interventi sui tassi di interesse come politica monetaria restrittiva, quindi 3 aumenti dei tassi. Sulla Banca Centrale Europea, alla luce delle indicazioni sull'inflazione recenti, si cominciano a presentare delle incognite, dei punti interrogativi, perché grandi scelte di restrizione di politica monetaria ovviamente Mario Draghi non ne può fare. Detto questo, potrà cominciare a dire cosa farà in futuro, se questa ascesa appunto dei prezzi continuerà e in che misura. Sono le 11:27, sì, magari già uno sguardino su questo argomento, no, magari un primo commento su questi punti ad Alfieri glielo faccio fare, poi lo approfondiamo, perché in realtà quello che poi mi interesserà capire è come adottare, che tipo di portafoglio di investimento adottare in uno scenario potenzialmente inflattivo, anche se con moderazione naturalmente. Sì, diciamo che l'incognita, una delle incognite su cui si può fare delle valutazioni è proprio l'inflazione. È chiaro che una forte inflazione negli Stati Uniti, dovuto a un interventismo molto forte di Trump già nel 2017, potrebbe, per così dire, sconvolgere l'agenda della Fed. In effetti le previsioni sono per il 2017 di un 2 o 3 rialzi, ma è chiaro che in una fase di forte inflazione potremmo anche vedere 4 rialzi, e questo potrebbe conseguenzialmente portare a una forte volatilità sui mercati, attualmente non prevista. Dall'altra parte, in Europa è chiaro che l'agenda di Draghi è quella di mantenere la rotta per il 2017, per superare le scadenze politiche molto importanti che ci sono in Olanda, in Francia, in Germania e probabilmente anche in Italia, e cercare di superare quindi una fase di tensione politica attraverso una politica monetaria molto espansiva. Quindi nessun tipo di intervento, ma ovviamente dobbiamo fare i conti anche in questo caso con una pressione inflazionistica che potrebbe improvvisamente arrivare in Europa. Allora, mi rendo conto che a qualche ascoltatore il nostro ragionamento potrà apparire azzardato, perché la scorsa settimana non abbiamo fatto altro che analizzare la situazione italiana, che invece è un paese in deflazione conclamata nel 2016, non accadeva dal 1959, però insomma, per guardarla sempre in maniera positiva, da lì in avanti partì il boom economico per il nostro paese. Chissà che anche oggi non si celi dietro l'angolo una sorpresa positiva, vedo delle condizioni però molto diverse. Abbiamo visto in questi anni quanto come dire, trovare dei rendimenti interessanti sui mercati, su qualsiasi asset class, sia stato molto difficile, ed è stato, Lorenzo Alfieri, JP Morgan, un tema di difficile digestione per i nostri ascoltatori. Quanti ragionamenti abbiamo fatto sui rendimenti dei titoli di Stato a zero e sotto zero, un argomento appunto che per molti risparmiatori ancora è proprio incomprensibile. Intanto le do l'esito anche delle altre aste di questa mattina. Il Tesoro ha collocato anche il titolo a 7 anni con un'ulteriore flessione del rendimento all'1,15%. Sono stati assegnati anche 1,5 miliardi di BTP a 20 anni con il rendimento al 2,53%. Cosa significa indebitarsi per un ventennio con questo rendimento, Alfieri? Ma purtroppo è un, soprattutto per l'investitore italiano che notoriamente investe molto nell'obbligazionario, è chiaro, avere tassi di rendimento di questo genere significa inevitabilmente dover guardare da altre parti, e per questo come dicevo prima la pianificazione finanziaria, avere un consulente che ti dia un'informazione a 360 gradi, diversificare su altri mercati diventa inevitabilmente molto importante. Non ci dobbiamo dimenticare che con tassi così bassi, lo abbiamo visto nelle ultimissime settimane, basta alcune paure, preoccupazioni di un anche minimo rialzo dell'inflazione e si corrono forti perdite sui titoli che si hanno in portafoglio. Infatti, senta, allora, prima ragionavamo su come abbiamo archiviato il 2016, noi tutto sommato sento che anche voi, così come i vostri colleghi, fate tutto sommato un bilancio positivo, perché i mercati, con tutto quello che è successo l'anno scorso, riescono appunto, sono riusciti ad archiviare un anno con un bilancio positivo. Però un anno fa appunto c'era la crisi cinese ad inizio 2016, per certi versi molto per certi versi inaspettata, anche se delle avvisaglie molto importanti e forti erano arrivate nell'estate del 2015. Allora, prendendo a spunto questo fatto di un anno fa appunto, quali sorprese potrebbero esserci dietro l'angolo in questo 2017? Non mi riferisco ai fatti che già conosciamo, quindi che ne so, un risultato elettorale magari nei 3 paesi indicati all'insegna della così deriva populista eccetera, proprio sorprese, il cigno nero, i cigni neri che non ci si aspetta, quali potrebbero essere, se ne prendete in considerazione, oppure che ne so, magari non avete anche una politica di studio che considera anche le circostanze più avverse. Ma diciamo che probabilmente l'unico elemento che non viene in questo momento preso in serissima considerazione è un forte rialzo dell'inflazione, sia negli Stati Uniti che in Europa. Come dicevo prima, le previsioni comunque parlano, per quanto riguarda gli Stati Uniti, di un'inflazione che dovrebbe aggirarsi nel 2017 e nel 2018 tra un 2,5 e un 2,7, e per l'Europa sicuramente ben al di sotto dell'obiettivo del 2%. È chiaro che uno scenario di, supponiamo, forte rialzo del prezzo del petrolio e una azione politica di Trump che si immediatamente determina forti pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti, e sappiamo che è molto difficile che rimangano circoscritte agli Stati Uniti, ma si potrebbero ovviamente si diffondere e propagare sulle altre aree. Ecco, questo è sicuramente un elemento che in questo momento i mercati finanziari non hanno assolutamente scontato. Potrebbe essere l'evento, certo, non previsto. Ma anche Wall Street non ha corso un po' troppo, secondo lei, spingendo così tanto sull'acceleratore, sulla scia delle premesse elettorali appunto di Trump? Mi rendo conto che il quadro è completamente cambiato, l'economia americana viaggia in una situazione di piena occupazione, l'abbiamo visto anche sui dati della disoccupazione appunto che sono stati diffusi venerdì scorso, però il Nasdaq, l'indice tecnologico, è sui suoi massimi storici, il Dow Jones è a un passo, flirta con questi 20.000 punti da tantissime giornate, e comunque a breve li toccherà. Non saranno dei segnali importanti questi per dare il via ad una svolta, ad una correzione che comunque è tutto sommato possibile? Allora, parlando a livello di indici, sicuramente gli indici azionari americani hanno avuto un forte recupero, anzi possiamo dire una forte crescita, e hanno quasi completamente scontato le notizie positive. Però c'è da dire che poi bisogna guardare alle singole storie aziendali, e su questo il tema è completamente diverso. Vediamo per esempio, secondo noi, delle interessanti opportunità su aziende di medio-piccole dimensioni dimensioni americane. Dobbiamo aspettare poi che Trump manifesti pienamente in che modo vuole agire, per il momento sono solo state date dei dettagli molto generici, per far crescere gli Stati Uniti e l'economia americana. Ecco, su questo poi si potrebbero innescare delle storie di vero successo che potrebbero negli Stati Uniti permettere ad alcune aziende di continuare a crescere nei loro corsi. Quindi c'è da guardare questi due angoli in modo completamente diverso. Storie di successo dagli Stati Uniti, sicuramente ce n'è una abbastanza evidente, e su questa ci vuole fare una domanda Edoardo dalla provincia di Modena. Edoardo, benvenuto. Buongiorno carissime, un caro saluto a voi e all'esperto. Eccoci qua. Volevo chiedere una cosa, il nostro esperto come prevederebbe il rapporto euro-dollaro? Sempre l'euro si rivaluta il dollaro secondo lui? Allora, qua la tendenza degli ultimi tempi è abbastanza chiara, molti pronosticano la parità fra le due divise, anche voi siete tra questi, Alfieri, la politica monetaria spinge chiaramente il biglietto verde. Su tutte le altre divise, quanto può durare questo movimento? Allora, c'è ovviamente un po' nell'idea generale guardare al dollaro inevitabilmente come una grossa opportunità di investimento perché continuerà a crescere. Bisogna però invece guardare un po' alla realpolitik, nel senso che sicuramente il dollaro in questa fase può venire visto come una valuta forte, ma questo non vuol dire che ci troviamo di fronte a una nuova fase di forte rivalutazione del dollaro. La fase di forte rivalutazione è sicuramente alle spalle, quindi ci può essere un'ulteriore crescita, ma a nostro modo di vedere le autorità americane guarderanno con molta maggiore attenzione al dollaro intorno alla parità, perché inevitabilmente si potrebbero innescare, non ci dimentichiamo, delle forti pressioni sugli utili delle aziende americane. Con un dollaro così forte non riusciranno più ad esportare, quindi il dollaro rimane comunque una valuta forte, ma questo non vuol dire, significa che bisogna mettere inevitabilmente il famoso chip sul dollaro per sperare di avere quello che abbiamo già visto nel 2015 e soprattutto nel 2016. Cosa significa nel vostro gergo mettere il chip sul dollaro? No, stavo pensando ovviamente a qualche investitore privato che dice voglio investire in dollari, perché sicuramente qualsiasi cosa compro in dollari il dollaro si rivaluterà. Sì. Ecco, diciamo che la strada di una ulteriore rivalutazione, stando così le cose, è molto limitata. Certo è che se improvvisamente dovessimo avere da una parte un'economia americana in forte crescita e dall'altra parte un'economia europea che continua a stentare con tassi di crescita intorno all'1% o forse inferiori, allora le politiche monetarie potrebbero cambiare radicalmente tra Fed e BCE, e quindi questo potrebbe effettivamente portare a un nuovo periodo di importante crescita del dollaro, ma questa è un'altra storia. Circostanze non certe e neanche altamente probabili, però insomma da considerare. E qua abbiamo adesso Luca dalla provincia di Pistoia. Ad ogni puntata reinvestire informati, anche questa è la domanda regina, direi. Come quanto è una porzione di frutta e verdura? Esattamente, quelle 5 porzioni di frutta e verdura, ma 5 di frutta, 5 di verdura, eccetera. Esatto, ci sono degli evergreen, come si dice. E detto questo, infatti, assolutamente a dare informazioni. E magari Luca, guardi, le faccio fare la domanda e poi a questo punto dovrò dedicare una trasmissione, un approfondimento interamente al gold. Luca, benvenuto. Buongiorno signora, mi fa piacere molto parlare con lei. Più che una domanda, per il discorso che volevo fare io dell'oro, è che proprio volevo consigliare le persone a comprarlo. Tutto qua. Lei lo vuole comprare? Lei lo consiglia? Sì, ma perché è molto più semplice che tutti i vari investimenti che sono molto complessi per il risparmiatore. Ma Luca, guardi, dipende dai punti di vista. L'oro cresce vistosamente, ma può essere anche protagonista di violentissime cadute, e prima cosa. Seconda cosa, bisogna vedere in che modalità lo si acquista, perché ci sono tante forme, no? Lorenzo Alfieri, c'è il lingotto fisico, ci sono le monete, ci sono i fondi di investimento, le singole società, gli ETF, ecco, forse Però il tema è che l'oro, come tutte le materie prime, sono anche fortemente dipendenti dai movimenti sui mercati valutari, quindi non è che uno si compra appunto il lingotto, lo mette in cassaforte e da lì anno per anno il valore cresce. Non è detto e non è così scontato. Sì, tra l'altro uno dei limiti che vi ricordo l'oro e che non dà reddito, cioè il problema è che ovviamente l'immobile, è immobile, esatto. E bisogna solo auspicare che il valore di questo bene continui, di questo bene prezioso continui a salire, certo. Altrimenti ovviamente non certo aspettiamo le cedole che invece il titolo di Stato o anche l'azione riesce ovviamente a staccare. Beh, magari un fondo di investimento che punta sulle società aurifere, magari qualcuna che dà qualche forma di remunerazione ce ne sarà anche, però insomma ma è un segmento molto specializzato, sì, e che è bene delegare. Assolutamente sì, un conto è investire direttamente sull'oro, un conto ovviamente è investire sul settore aurifero. Non ci dimentichiamo che appunto i fondi che investono sul settore aurifero investono in aziende e sono necessariamente coinvolti nel proprio ciclo aziendale, certo, che poco ha a che fare a volte, certo, con l'andamento dell'oro. Detto questo, adesso per non mortificare proprio l'osservazione di Luca, magari un piccolo pezzetto del proprio portafoglio, o se lo si vuole anche orientare in questo strumento, perché no, naturalmente. Detto questo, poi ognuno fa le sue scelte, le condivide magari con il suo consulente, però ecco, un suggerimento di investimento così spinto come lui ha dato, magari noi non lo così condividiamo fino in fondo. Cosa ci chiede Gabriella? Ci scrive Gabriella: scusate l'ignoranza, ma se i prezzi scendono io compro più cose, se certo, aumentano io compro molto meno. Ma allora mi spiegate come mai la deflazione non è positiva per i consumatori? Esatto, perché è necessaria ad un'economia, per far parlare bene di un'economia appunto che cresce in buona salute, che i prezzi salgano? Allora Gabriella, non si dimentichi che naturalmente ci sono aziende che producono e che qualcosina devono anche portare a casa, se no non riescono a pagare i salari, devono ridurre i salari, cioè anche quelli bisogna guardare anche dietro, determinano appunto, determinano inflazione. Ma poi Alfieri, sì. Sì, no, poi c'è l'importante effetto psicologico. Se un consumatore sa che domani può pagare ancora meno, rinuncia a comprare oggi, esatto, e non va si a comprare, consuma, si blocca tutto, si bloccano i consumi, quindi la deflazione possiamo dire che in effetti viene vista ancora peggio dell'inflazione strisciante. Chiaramente i due peggiori attori sono l'iperinflazione e la deflazione. Certo. Allora, torniamo però, sì, no, stavo così un po' pensando a quali domande posso fare a Lorenzo Alfieri fra le tante che avevo in testa. L'Europa, dicevamo prima, si troverà ancora davanti ad altre incognite politiche quest'anno per le elezioni in Olanda, Francia e Germania. A prescindere dai risultati elettorali, c'è un ascoltatore che mi dice: ma insomma, prima ho utilizzato il concetto della deriva populista, questo significa esprimere una precisa posizione politica? Allora la cancello. Insomma, i movimenti populisti, chiamateli come volete, movimenti di protesta come quella che hanno fatto i lavoratori appunto della Rust Belt, la cintura della ruggine del Michigan, gli operai appunto dell'industria automobilistica che hanno votato Trump, chiamatela come volete. Detto questo, le elezioni e le ripercussioni appunto sui mercati finanziari, Alfieri, quali ci dobbiamo immaginare, ipotizzare? Ma sicuramente, come dicevo all'inizio, il 2017 per i mercati azionari europei, soprattutto alla fine del primo semestre, saranno estremamente volatili. Dipende dai risultati, perché chiaramente poi il percorso successivo in Europa può essere fortemente condizionato dalle scelte elettorali fatte in alcuni paesi, soprattutto al centro. In questo momento viene ritenuto la Francia. La Francia sembra essere in questo momento il cosiddetto punto di svolta. A secondo di come verranno fuori i risultati elettorali, ci potranno essere diversi scenari. Ricordo per quale motivo ci sarà volatilità: perché comunque in generale agli investitori finanziari non piace l'incertezza. Quindi dove ci sono mercati con forti incertezze, inquietudini, in questo caso saranno politiche, ovviamente l'investitore istituzionale, non solo, tende ad andare via, ad allontanarsi, per poi ritornare quando lo scenario è più, certo, chiaro. Senta, c'è una domanda di Walter da Belluno che chiede, e la metto in relazione all'esito delle aste del Tesoro italiano di questa mattina, che hanno ancora manifestato rendimenti in discesa, in ulteriore ribasso, e ricordo ancora che per il bot annuale di ieri siamo a meno 0,25%, cioè io investo, consegno al nostro Stato 1000 euro per sottoscrivere il bot che dura un anno e lo Stato fra un anno mi ridà indietro meno di quello che ho investito, appunto. L'ascoltatore appunto chiede cosa succederà quando Draghi ridurrà prima o sospenderà l'acquisto dei titoli di Stato italiani. Questi andamenti dei rendimenti così verso il basso sono determinati anche naturalmente dal cosiddetto quantitative easing, dalla BCE che compra appunto asset in tutta Europa, titoli di Stato, quindi obbligazioni governative ma anche obbligazioni societarie. Ma diciamo che le nostre aspettative per quanto riguarda la BCE e Draghi è che questo passaggio da una fase di acquisto importante di titoli non solo italiani ma diciamo governativi dei principali paesi europei avverrà molto molto gradualmente e sarà fortemente correlato e collegato all'andamento delle economie. Quindi non possiamo e non ci aspetteremo una manovra dall'oggi al domani di Draghi che chiuderà per così dire i rubinetti, perché non ci dimentichiamo cosa è successo un anno e mezzo fa quando ovviamente la Fed aveva dichiarato di chiudere per così dire i rubinetti di acquisti sui treasury. Abbiamo visto cosa è successo sui mercati finanziari, soprattutto quelli dei paesi emergenti. Quindi la gradualità sicuramente sarà uno degli elementi caratterizzante la lenta uscita dal cosiddetto quantitative easing della BCE verso politiche monetarie per così dire meno espansive. Tra l'altro, a proposito di mercati emergenti, ci sono due situazioni degne di nota in questo periodo. Vabbè, il Messico, del quale si parla tanto in relazione anche alle condizioni che detta Donald Trump, il peso messicano continua a scendere, appunto, proprio anzi a tracollare, con gli investitori che naturalmente fuggono da questo paese, poi a prescindere dal muro che Trump è intenzionato a costruire. Qua ci sono proprio delle riorganizzazioni di carattere commerciali che pesano molto. E poi c'è questo nuovo record al ribasso raggiunto un paio di giorni fa da parte della lira turca. Ci sono molti problemi legati appunto al sistema bancario in quel paese, tutte le riforme che si stanno discutendo in Parlamento che mirano a rafforzare i poteri di Erdogan. Quindi situazioni appunto, oltre a tutte le preoccupazioni naturalmente legate anche agli attentati, l'incertezza appunto politica eccetera. Quindi due aree da tenere sotto osservazione, non in termini strettamente positivi, ma siccome abbiamo parlato tanto di inflazione rimaniamo un po' su questo tema, che è quello che più da vicino appunto i risparmiatori devono guardare. Allora, non ne prenderà il volo prossimamente, però un risveglio c'è e i dati di dicembre l'hanno detto, soprattutto per quello che riguarda alcune aree dell'eurozona, non è così per l'Italia, dicevamo. Allora, in prospettiva, con i prezzi che cominciano a salire, siccome l'inflazione è quell'elemento che noi, quando consideriamo i rendimenti dei nostri investimenti, non lo vediamo, ma l'inflazione naturalmente un po' erode anche i rendimenti delle scelte di risparmio che facciamo, qual è il portafoglio giusto? Come si deve investire per proteggersi da uno scenario di questo tipo? Ma innanzitutto ricordiamo che giustamente si dice sempre che c'è l'inflazione buona e l'inflazione cattiva. Stiamo partendo da livelli di tassi inflazionistici, addirittura l'Italia in deflazione, così bassi, che quindi un po' di inflazione deve essere vista, finché rimane ovviamente in certi termini, assolutamente un elemento positivo, e significa che quell'area economica sta ripartendo. Per quanto riguarda il proprio portafoglio, inevitabilmente bisognerà tenere in considerazione il fatto che i mercati obbligazionari, le obbligazioni potrebbero soffrire un po' di più, guardare al mercato azionario e mercato magari guardare alle obbligazioni corporate e a yield, che hanno dei rendimenti, certo, tali da coprire eventualmente. Societarie alto rendimento.